English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera siamo in Inghilterra, parliamo proprio inglese, ma proprio di quello british davvero, perché abbiamo come ospite Edward Bond, che è un drammaturgo, poeta, sceneggiatore, regista teatrale britannico, nato a Londra nel 1934. In questi giorni è protagonista della scena teatrale milanese, in particolare perché il suo La Compagnia degli Uomini è ancora in scena al Piccolo Teatro, ed è arrivato anche lui a Milano per presentare la sua opera. Un testo scritto negli anni Ottanta, ma la cosa particolare di questo testo è che parla della crisi economica di oggi. Quindi gli abbiamo chiesto subito come ha fatto negli anni Ottanta a parlare di quello che sarebbe successo 30 anni dopo. What you do is you try to understand what movements are happening in society, and you look at those things and you know that they're going to have future effects. If you look closely at the world you're living in, inevitably you're going to write about tomorrow as well. The two go together. What I try to do in this play is create a young man. He's called Leonard, and I want him to try and talk about and experience the problems of living in that world, which for him is dehumanizing, and he wants very much to find a human sense so that he can live with himself as well as with other people. E quindi familiarizziamo subito con la pronuncia di Edward Bond, una pronuncia molto inglese, però comprensibilissima. Sì, poi qui c'è questo what you do all'inizio e è una specie di contrazione che sentiamo nel pronunciato con questo what you. Naturalmente sarebbe what you do, se avesse forse la regina avrebbe detto what you do, e lui la addolcisce un po'. Questo lo fanno sia gli inglesi che gli americani, e esce quel what you do, quindi quello che fai, quello che fai nel senso qui in senso generale, perché la domanda era appunto come fai, come hai potuto prevedere con il tuo lavoro di drammaturgo a 30 anni di distanza. E lui ha detto you have to understand what movements are happening in society, quindi capire quali sono i movimenti che agitano la società, non soltanto diciamo i picchi, gli eventi. You look at those things and you understand that they will have future effects, e quindi che avranno degli effetti nel futuro, se sei fortunato, perché secondo me ci vuole anche una bella dose di fortuna, poi quei future effects si verificano veramente. Eppure secondo lui è inevitabile, se fai davvero attenzione all'oggi, capire il domani. Sì. Secondo me non è così automatico, però lui ce la fa. Ci vuole un grande talento probabilmente, quindi lui dice if you look closely, quindi to look closed vuol dire chiuso, ma to look close vuol dire attentamente, quindi se guardi attentamente, closely, l'avverbio attentamente, at the world you are living in, al mondo in cui tu stai vivendo. E qui notate come la particella finisce alla fine, no? Si dice to live in a world, in a happy world, but the world I live in, e l'in lo mettiamo alla fine. Beh, lui dice inevitably you're gonna write about tomorrow as well, e qui usa il gonna, che sappiamo che è più americano, si vede che a lui piace il gonna, lo avrebbe usato più facilmente un americano di un inglese, che naturalmente vuol dire you are going to write, è una cosa trazione, quindi inevitabilmente, quindi se guardi attentamente il domani, you're gonna write about tomorrow as well, ti ritroverai a scrivere del domani. E poi lui ci riporta alla Compagnia degli Uomini, e in fondo lui dice la cosa che mi interessava in particolare fare era creare un personaggio, questo Leonard, che ha dei problems of living, quindi ha dei problemi, to have problems of, sappiamo che of vuole, nel caso del verbo non possiamo dire problems of live o problems of eat, ma dobbiamo usare il gerundio, quindi problems of living, problems of eating, problems of sleeping, quindi ha dei problemi a vivere, perché questo mondo al suo personaggio sembra molto dehumanizzato, quindi disumanizzante, qui è proprio esattamente come lo diciamo noi. Ebbene sì, questo personaggio, secondo Edward Bond, ha una somiglianza. Lui dice, non voglio essere immodesto, però qualcosa che riguarda e che assomiglia a un personaggio molto famoso della storia della letteratura. Sentiamo quale. The character reminds me very much of Hamlet. Has to do with Hamlet. Well, you know, I'm not pretending I'm William Shakespeare. But yes, because Hamlet was living in a world that was rapidly changing. I mean, you know, just like we live in a terminal period of civilization. You know, we're at one of those great big historical turning points. We either solve these problems and the problems that the play is dealing with, or we destroy ourselves. Shakespeare deals with this problem. Dostoevsky in The Brothers Karamazov is very... there are three brothers in the Karamazov novel. Well, this is the fourth. Then this is the fourth. Beh, è simpatico Edward Bond, perché con qualsiasi altro tono sarebbe risultato veramente spocchioso. Paragona il suo personaggio a un personaggio di William Shakespeare e anche a uno dei fratelli Karamazov, ma lo fa ridendo, sorridendo, e dice: effettivamente questo personaggio di cui parlava prima mi ricorda Amleto. E qui naturalmente abbiamo il nostro amico, il nostro falso amico, il nostro false friend character, che sappiamo che non è carattere ma personaggio. Quindi questo personaggio reminds me very much to remind me somebody of something else, quindi mi ricorda, no? Un reminder è una nota per ricordarmi di qualcosa, quindi reminds me very much of Hamlet. Poi si corregge un po' e dice has to do with Hamlet, quindi ha qualcosa a che fare con Hamlet, e poi si rende conto che già soltanto paragonare i personaggi vuol dire anche paragonare se stesso a colui che ha creato Hamlet, e sappiamo bene chi è, quindi dice I'm not pretending I am William Shakespeare, non sto facendo finta. To pretend vuol dire letteralmente fare finta, quindi non sto facendo finta, non mi sto illudendo di essere William Shakespeare. Però spiega qual è il punto molto interessante che li accomuna, cioè ed è proprio il fatto di vivere in un momento che lui si è immaginato negli anni Ottanta, ma che è perfetto per oggi, di grande cambiamento. Sì, dice quindi che Hamlet, così come il suo Leonard, il personaggio, vivono questi big historical turning points, cioè questo è secondo lui il nostro momento, quindi un turning point, un punto di svolta naturalmente, è un punto di svolta nella storia. E nel secondo lui, per esempio, che cosa c'è di così storico nel nostro momento? Che we either solve these problems or we destroy ourselves, either or, o facciamo questo o succede quest'altra cosa. Qui si vede che è inglese, perché un americano avrebbe detto either, e c'è quella bellissima canzone, no? You say potato, I say potato, you say either, I say either, perché gli americani dicono appunto either. E poi lui conclude dicendo che effettivamente questo Leonard potrebbe essere il quarto dei fratelli Karamazov, sempre sorridendo. Sì, ci ricorda appunto che c'è anche la novel The Car of the Brothers Karamazov, e sappiamo che erano tre, e lui dice beh il mio Leonard potrebbe essere the fourth. Poi si fa una bella risata, perché insomma tra Shakespeare e Karamazov, e poi c'è il nostro amico Bond, che appunto ci sta particolarmente simpatico, soprattutto quando prende le prese di posizioni davvero così decise. Allora, non tutti sanno che nel 1966 Edward Bond collaborò alla sceneggiatura niente meno che di Blow Up di Michelangelo Antonioni, e poi ha lavorato anche altri film, ma lui non ha mai amato il cinema, anzi ora in particolare odia il cinema, dice che è spazzatura. Io ero un po' stupita quando gliel'ho chiesto, ho detto ma davvero per Edward Bond tutto il cinema è spazzatura? You might want to make an exception about Italian cinema. I'm talking about Hollywood and Bollywood and all that rubbishy wood, you know. And I know what I'm talking about, because, you know, I've tried to write for these places. And in the end, the decisions are made by accountants. And the accountants decide what will be produced. Not the artist, not the director, not... you know, it is ridiculous. Supposing Michelangelo was painting his ceiling in the Sistine Chapel, so supposing the Pope had got himself hoisted up in a cradle and had started repainting it, you know? Well, that's what happens. Non ha tutti i torti, è un po' effettivamente estremo, perché dice tutto il cinema è spazzatura, tutto il cinema o quasi, mi concede il beneficio del dubbio, ma Edward Bond non ha dubbi. Sì, dice insomma, probabilmente rispondendo a una giornalista italiana, gli dice vabbè ok, you might want to make an exception for Italian cinema, quindi vabbè ok. potremmo fare, possiamo tradurre così letteralmente, potresti voler fare, ma noi in italiano diremmo, vabbè, potrei fare un'eccezione per il cinema italiano, ma Hollywood, Bollywood, che naturalmente sappiamo è tutto il cinema indiano, dove tra l'altro la produzione è 10 volte superiore a quella di Hollywood, e poi dice una cosa comicissima, questa se la inventa, dice all that rubbish wood, cioè tutta quella spazzaturina che finisce in wood, no? Perché appunto Hollywood, Bollywood, perché poi Bollywood è naturalmente una specie di, non di parodia, non volevano credo essere sì, hanno fatto un calco sul nome di Hollywood, non è una vera, ci ha pensato Bond, insomma, a ridicolizzare tutti questi termini che finiscono in wood, che per lui vuol dire cinema che non è cinema. Lui spiega perché secondo lui è tutta spazzatura, con qualche eccezione che potrebbe fare per il cinema italiano per dovere di ospitalità, perché si trova a Milano. Sì, proprio dice, insomma, non è la mia, non è una critica così di quello che guarda da fuori, I know what I'm talking about. Questo è naturalmente, come lo diciamo in italiano, so di che cosa sto parlando. E I tried to write, quindi in passato, quindi qua vediamo che se c'è il to, naturalmente non ci vuole gerundio ma l'infinito, quindi ho provato a scrivere per il cinema, ma non gli è andata bene, non ne ha un buon ricordo. Soprattutto perché l'artista del cinema, secondo lui, è soggetto ad alcune pressioni molto importanti. Sì, lui dice, questa è appunto la sua opinione, un po', poi naturalmente gli si potrebbe dire, vabbè, ma quante persone avrebbero visto il tuo film, perché poi alla fine c'è anche questo, no? Però lui dice, in the end the decisions are made by accountants. Accountants potremmo tradurre con una via di mezzo, un personaggio che potrebbe essere metà ragioniere, metà contabile, metà burocrate, insomma, non dagli artisti, ma da altre persone che lavorano nella grande macchina di Hollywood o di Bollywood. Allora, siccome ridendo si è paragonato a Shakespeare, adesso tira fuori un altro personaggio non da poco. E qui, però tra simpatico, poi insomma, suppose Michelangelo was painting his ceiling of the Sistine Chapel, quindi supponete per esempio che Michelangelo stesse dipingendo il soffitto della Cappella Sistina, arriva il Papa, vabbè, e qui got himself hoisted up in a cradle, quindi to hoist up vuol dire imbragarsi letteralmente, quindi il Papa si fa imbragare, si mette in una specie di culla, cradle, e si fa tirare su e si mette a dipingere lui la Cappella Sistina. Qui ne approfitto per dire che noi settimana scorsa io ho detto cradle mentre Obama aveva detto creed, oddio, non l'avessi mai fatto. I nostri fedelissimi ascoltatori hanno notato, biasimato questa brutta svista, quindi ammetto il mio errore, ho sbagliato, Obama mi emoziona, non c'è niente da fare, e però adesso appunto sappiamo che creed era quello che aveva detto Obama, cioè il credo, e qui invece abbiamo una vera cradle, cioè una culla con dentro il Papa che va su a dipingere il soffitto. E soprattutto sappiamo che un sacco di persone ci ascolta molto attentamente, e comunque ci fanno molto piacere molto le vostre mail. Cosa succede? Il Papa viene appeso, Michelangelo sta dipingendo la Cappella Sistina. Come se il Papa, che in realtà artista non è, avesse imposto a Michelangelo started repainting, e avesse iniziato a ripitturare. Ecco, that's what happens, dice Bond, quando appunto un accountant prende le decisioni al posto, dice not the artist, not the director, not puntini puntini, ma l'accountant. Questa è una cosa che non gli va giù. Straordinario Edward Bond, l'autore della Compagnia degli Uomini, che in questo periodo al Piccolo Teatro di Milano. È finito il nostro tempo radiofonico. Io devo ringraziare Fabio Cantadori in regia, ricordarvi che English 24 comunque vi tiene compagnia tutta la settimana in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'appuntamento al prossimo English 24.